Sono le 13. GR24, il sole 24 ore. Lo scontro nel PDL, Bocchino lascia ma accusa Berlusconi, ha chiesto la mia del Bayern Monaco. Buongiorno dalla redazione, ancora una buona giornata da Anna Migliorati. In primo piano c'è la politica e lo scontro nel PDL. Bocchino ha lasciato definitivamente questa mattina l'incarico, ma lasciando strascichi polemici. Una questione, insomma, tutt'altro che chiusa. Allora andiamo subito da Vincenzo Miglietta. Buongiorno, sale dunque la tensione all'interno del Popolo della Libertà. Dopo giorni di polemiche ed annunci in tal senso sono arrivate le dimissioni da capogruppo vicario alla Camera del Finiano Bocchino. È stato Berlusconi a chiedere la mia testa, ha detto poco fa il parlamentare, ma ascoltiamo le sue parole. Evidente il tentativo da parte di Berlusconi in prima persona di arrivare ad un'epurazione mia per colpire l'area vicino a Fini. Essendoci stato una direttiva personale di Berlusconi, io ho ritenuto opportuno dare delle dimissioni irrevocabili per far comprendere che i nostri sono problemi esclusivamente politici e non di posti all'interno del partito. Questo ci consentirà con maggiore libertà di contestare il centralismo carismatico che oggi dà una controprova della sua esistenza all'interno del Popolo della Libertà. Chiedere un partito plurale, un partito maggiormente democratico, un partito che sia capace di valorizzare anche i dissensi interni. Non esiste un solo partito del mondo occidentale dove possa accadere quello che è accaduto. Bocchino, con le sue dimissioni irrevocabili, ha di fatto anticipato quanto oggi stesso avrebbe deciso l'assemblea del gruppo. Fonti interne al Popolo della Libertà confermano infatti che lo stesso Berlusconi ne avrebbe chiesto l'esclusione, stanco dei ripetuti attacchi al partito e al governo dalla componente finiana. Il cavaliere in una cena ieri sera con alcuni senatori avrebbe aggiunto: Fini mi ha tradito, spero solo che ora dimostri lealtà agli elettori. E da Roma è tutto. Grazie a Vincenzo Miglietta. Noi torneremo più avanti alla pagina politica italiana. Prima però la crisi greca è ancora in corso, infatti ad Atene la riunione tra il premier greco Papandreou e i sindacati e rappresentanti degli industriali greci dovrà informarli sulle nuove misure che il governo è pronto ad introdurre per far fronte all'emergenza, misure già definite dolorose. La Grecia insomma sembra decisa ad uscire dalla crisi con l'aiuto dell'Europa, una decisione che piace ai mercati. La borsa di Atene a metà giornata registra ora una vera impennata con guadagni che hanno sfiorato il 7%. Bene, l'abbiamo sentito a Salvadanaio, un po' tutte le piazze europee, condizionate anche dal sì della Germania agli aiuti. Allora andiamo a Berlino da Beda Romano. Buongiorno. Buongiorno. Aperture, dicevamo, da parte della Germania ieri sulla Grecia. Cosa è successo e cosa sta succedendo? Cosa è successo? La Germania ha senz'altro cambiato atteggiamento, ha cambiato tono nei confronti della Grecia e nei confronti di un eventuale salvataggio greco, e credo che lo abbia fatto fondamentalmente perché nel corso delle ultime ore, negli ultimi giorni, l'ipotesi, il rischio di un effetto valanga, di un effetto domino nell'intera zona euro è apparso evidente alla classe politica ed è apparso evidente soprattutto alla signora Merkel. Oggi, questa mattina, ci sono due segnali interessanti. Il primo è una lunga intervista del governatore della Bundesbank, Axel Weber, che a Bild, il quotidiano popolare che vende oltre 3 milioni di copie in questo paese, che è letto da 13 milioni di persone, ha spiegato ai suoi concittadini che salvare la Grecia è indispensabile per evitare rischi incalcolabili, e ha trasformato in realtà l'aiuto alla Grecia in un aiuto alla moneta unica, che è fondamentalmente la nuova moneta tedesca. Il secondo segnale interessante proviene dal Presidente della Repubblica, Horst Köhler, che è uscito allo scoperto dopo settimane di silenzio su questo argomento. In un congresso a Monaco ha dato il suo assenso all'aiuto tedesco alla Grecia e anzi ha esortato il paese ad aiutare la Grecia. Questi due segnali sono interessanti perché rafforzano l'idea che la Germania a questo punto si è arresa al fatto che qualcosa bisognerà fare. Ormai però tutto dipende dalle trattative tra il Fondo Monetario Internazionale, la Commissione Europea e il governo greco sul piano di risanamento. Grazie a Beda Romano. E allora sentiamo cosa è disposto a fare il governo greco. Andiamo ad Atene da Vittorio Darold. Buongiorno. Allora, Papandreou ha illustrato queste misure o la riunione è ancora in corso? Stanno proprio in questo momento, è uscito un ministro del governo greco dalla riunione in corso appunto con il premier e i sindacati e l'associazione degli industriali, e stanno dando le prime indiscrezioni alla stampa greca e internazionale che è qui davanti appunto alla residenza ufficiale della premier. Si sta aspettando appunto l'esito di questo incontro, perché potrebbe essere quello risolutivo per dare il via libera poi. Hai qualche indiscrezione, qualche anticipazione, Vittorio? Le anticipazioni riguardano questo taglio appunto della tredicesima e quattordicesima, cioè il taglio dei salari su cui si stava cercando di arrivare a un accordo, perché come voi sapete quando un paese non può svalutare deve ridurre i salari, cioè deve aumentare la propria competitività, e questo è un po' il nodo sulla quantità di questi tagli, perché già il governo ha tagliato il 30% della tredicesima e quattordicesima dei dipendenti pubblici e delle indennità varie. Sostanzialmente è già stato fatto un taglio dell'8% anche ai salari dei militari, che ricordiamo i piloti dell'aviazione greca ieri si sono dati tutti malati, e questo è stato un segnale molto, molto forte che ha fatto discutere il paese. Aviazione, porti, insomma un po' tutti. Vittorio, a questo punto dicevamo riunione in corso, chiedici la linea appena ci saranno i particolari. Sì, esattamente. Intanto la borsa però ha guadagnato già il 7% questa mattina. E dicevamo, le borse hanno reagito veramente in impennata. Grazie Vittorio Darold, se ci saranno novità già nel corso del notiziario naturalmente ve le daremo, altrimenti nelle prossime edizioni tutti i particolari da Atene sul piano che si sta pronto mettendo a punto proprio in questi minuti. Ieri vi abbiamo raccontato intanto di un altro paese a rischio, il Portogallo. Oggi andiamo invece in Spagna, declassata ieri, dopo che solo pochi anni fa esultava sul sorpasso per l'Italia. Sentiamo la Spagna. In Spagna ultimamente nulla va per il verso giusto. Ci si è messo perfino l'Istituto di Statistica, che per errore ha pubblicato in anticipo i pesantissimi dati sulla disoccupazione, arrivata al 20,11%. Certo, li avrebbero dovuti rendere pubblici lo stesso, ma almeno il premier Zapatero non sarebbe stato costretto a presentarsi in fretta e furia al Senato per dire che la ripresa è iniziata e l'occupazione è una priorità del governo. Zapatero non ha convinto, è apparso incerto, tanto che un editoriale di Rodolfo Irago, direttore dell'influente radio nazionale Cadena Ser, si intitola «C'è qualcuno lassù?». Ieri poi è arrivato il taglio del rating, ciliegina sulla torta di un paese che festeggia 8 trimestri di recessione e che, a detta degli organismi internazionali, ha un futuro a tinte fosche. Partita dal settore immobiliare, la crisi ormai dilaga nel sistema bancario e nella economia reale. Eppure solo 2 anni e mezzo fa, ecco cosa noi a Radio 24 annunciavamo. La Spagna ha superato l'Italia nella statistica europea dei paesi quanto a PIL pro capite. È andata come è andata. L'Italia ha risuperato la Spagna nel gennaio scorso, eppure abbiamo lo stesso di che preoccuparci, perché anche se lo stato delle finanze pubbliche spagnole è migliore di quello greco, la Spagna è una delle 4 maggiori economie dell'Unione Europea e un suo tracollo sarebbe esiziale. Alla stessa Cadena Ser, oggi Joaquín Almunia, vicepresidente della Commissione Europea, dice calcisticamente che in questa crisi l'Unione ha fatto tanti passaggi, ma non è ancora andata in rete. Della Spagna sostiene che è come il Barça, cioè da Champions League, ma aggiunge amaro che non tutti hanno la sorte di andare in finale. E della Germania dice che sta facendo anche i suoi interessi, ma che è vero, la Grecia non è stata all'altezza dell'Unione Europea. E restando in termini calcistici, a piede teso sull'Unione Europea entra Toscio, il segretario generale del maggior sindacato spagnolo, la Commissione Obrera. La Unione Europea, de forma irresponsabile, mantiene... È irresponsabile, dice, la gestione della crisi greca, e la Spagna ne sarà travolta. Y nos alcanzará a nosotros y a quienes creen que están a salvo. Laura Bettini, GR24 e Sole 24 Ore. E l'Italia, che succede in Italia? Tenere il risparmio delle famiglie, così almeno sottolinea un rapporto che stanno presentando proprio in questi minuti. Andrea Viali. Sì, è così, Anna, in effetti nonostante questi venti di crisi dell'economia, le famiglie italiane restano solide dal punto di vista finanziario e rispetto alla media degli altri paesi avanzati mantengono una capacità di risparmio maggiore e un indebitamento invece minore, e quindi un quadro tutto sommato positivo quello che è stato delineato oggi dal primo rapporto sulla situazione finanziaria delle famiglie italiane, rapporto che è un nuovo strumento realizzato dall'Associazione Bancaria Italiana assieme al Ministero del Lavoro proprio per monitorare le conseguenze e i possibili rischi legati a questa crisi. Fra i dati più interessanti di questo rapporto c'è ad esempio quello che riguarda la possibilità di acquistare le case. A quanto sembra appunto le famiglie italiane sono mediamente in grado di farlo, sono mediamente in grado di sostenere i costi di un mutuo, anche se in questo caso non mancano alcune difficoltà, in particolare quelle che si trovano ad affrontare le coppie giovani che vivono nelle città più grandi. Anche la propensione al risparmio delle nostre famiglie ha contribuito ad attutire al momento per ora gli effetti della crisi nel nostro paese, ha rilevato, commentando il rapporto, il presidente dell'ABI Faissola. La sua analisi è stata condivisa dal ministro Sacconi, che naturalmente ha parlato anche del caso Grecia, la cui situazione a suo dire è grave ma recuperabile. Non vedo pericoli di contagio né pericoli per i risparmiatori italiani al momento, ha detto Sacconi. A te la linea, Anna. Grazie Andrea Viali. E la Camera ha approvato questa mattina il collegato al lavoro, il testo ora passa al Senato, il DDL era stato rinviato, ricordiamo, alle Camere dal Presidente della Repubblica, che aveva chiesto correzioni su due punti, l'arbitrato e i risarcimenti per le cause di lavoro legate all'amianto. Sul primo punto il Governo ieri era stato battuto su un emendamento del PD. Nella discussione sul DDL lavoro molto ruota intorno alla cosiddetta clausola compromissoria, una clausola che, inserita in un contratto, fa sì che per dirimere le controversie lavorative si debba far ricorso all'arbitrato invece che ad un giudice. I paletti sono stati fissati dopo i rilievi del capo dello Stato, l'arbitro non potrà intervenire in caso di licenziamento e il lavoratore potrà accettare di firmare la clausola solo dopo aver superato il periodo di prova. Ieri l'approvazione dell'emendamento del PD. Come viene modificato su questa base il DDL lo spiega dal centrodestra il relatore Giuliano Cazzola. La norma modificata parlava di controversie che dovessero insorgere. L'emendamento ha cambiato le parole in controversie insorte. Secondo l'interpretazione dell'opposizione, ma noi abbiamo un'opinione diversa, significa che non è più possibile, ecco, che venga sottoscritta una tantum all'inizio una clausola compromissoria, ma ogni volta che sorge una controversia, le parti dovrebbero presentarsi davanti alla commissione di certificazione e dire: noi siamo intenzionati ad affidare questa controversia ad arbitri. Se passasse questa interpretazione che noi contestiamo, vorrebbe dire che in buona sostanza il vantaggio, l'appeal, diciamo, della sottoscrizione della clausola compromissoria individuale sarebbe in larga misura vanificata. Se dovesse passare l'interpretazione del Partito Democratico, aggiunge Cazzola, ci sarà una nuova modifica al Senato. Simone Spezia, GR24, Il Sole 24 Ore. Le 13:13, andiamo a Torino, dove è stato presentato questa mattina il programma del Salone del Libro, che si terrà a Lingotto dal 13 al 17 maggio. La nostra inviata Alessandra Tedesco. Sì Anna, è un programma come sempre ricco quello del Salone, sottolineiamo Salone perché da quest'anno non si chiamerà più Fiera e questo proprio per sottolineare che si tratta soprattutto di un evento culturale non commerciale. Tema di questa 23esima edizione è la memoria, si punta soprattutto a un recupero della memoria in un mondo fatto di tanta tecnologia. Paese ospite l'India, come spiega il presidente del Salone Rolando Picchioni, sentiamolo. La scelta dell'India è una scelta di un paese fortissimo, uno delle grandi economie emergenti del mondo dal punto di vista letterario, voi conoscete benissimo quali sono i loro autori e pertanto è una scelta che noi speriamo possa accondiscendere a tutti i nostri auspici e soprattutto alle nostre speranze. Insomma, vogliamo che l'India sia uno dei pezzi forti della fiera. E naturalmente Sicuramente dunque saranno tanti gli scrittori indiani, tra i quali per esempio vi citiamo Vikas Swarup. Forse il nome non vi dice nulla, ma insomma lui è l'autore del romanzo dal quale è stato tratto il film The Millionaire. Fra gli stranieri ancora citiamo dell'America Scott Turow, che è il padre del legal thriller, tra l'altro anche consulente del presidente Obama. Quanto agli scrittori italiani ci saranno, per esempio, facciamo giusto dei nomi, Umberto Eco, Gianrico Carofiglio e poi l'esordiente caso letterario di quest'anno, Silvia Avallone. Infine ancora vi ricordiamo che Radio 24 sarà presente al Salone con i propri studi nel Padiglione 2, da dove trasmetteremo una serie di programmi. In più l'iniziativa Il libro della mia vita. Qual è il libro di cui avete memoria, insomma quello che vi ha emozionato di più? Scrivete una mail a ilcacciatoredilibri@radio24.it. Ogni sabato nel programma appunto Il cacciatore di libri in onda alle 21, due di voi potranno aggiudicarsi due biglietti per il Salone. Da Torino è tutto, Anna. 13:19 minuti, le notizie di oggi di GR24, lo scontro nel PDL, Bocchino lascia ma accusa Berlusconi, ha chiesto la mia testa. La Grecia vara misure dolorose, la svolta piace alle borse. Negozi aperti il 1° maggio, Milano dice no ma l'Italia si divide. E poi ancora la festa Inter, ora c'è Madrid e il Bayern Monaco. E ripartiamo proprio da qui, dalla pagina sportiva, l'anticipiamo un po' oggi con la festa ieri sera a Milano per la qualificazione dell'Inter alla finale di Champions League. Dopo 90 minuti di sofferenza appiccicati al televisore, il popolo nerazzurro scende nelle strade per festeggiare la sconfitta più dolce della sua storia. Da Piazza Duomo a Moscova, dai Navigli a Porta Romana, il fiume festaiolo degli interisti è senza soluzione di continuità. Bandiere, striscioni e slogan, clacson e traffico impazzito. Eroici, i tifosi della squadra di José Mourinho non utilizzano altri aggettivi per definire i giocatori, capaci di portarli sul cammino del Santiago Bernabéu, nonostante, dicono, per usare un eufemismo, un arbitraggio a dir poco discutibile. Ma non c'è tempo per recriminare e gli inni sono tutti per lui, lo special one portoghese, capace di creare una squadra di livello internazionale e non solo per il nome. Non importa se ci sono ancora 90 minuti da giocare e i tedeschi del Bayern ad aspettare. Per i tifosi nerazzurri comunque andrà, la serata di ieri rimarrà nella leggenda. Antonio Vanuzzo, GR24, Il Sole 24 Ore, Milano. Il 22 maggio a Madrid, prossimo avversario sarà il Bayern Monaco e Dario Ricci ha intervistato un grande ex che coi bavaresi ha vinto anche un campionato tedesco, Ruggero Rizzitelli. La mentalità è quella di non mollare mai, l'abbiamo visto. Proprio quest'anno, insomma, ricordiamo che il Bayern nelle fasi di eliminazione, insomma, vediamo con la Fiorentina, insomma, era sempre in svantaggio, riuscì sempre a recuperare, con la Fiorentina anche con un po' di fortuna dell'arbitro anche, quindi, però guardiamo col Manchester, insomma, dopo un 3-0 sembrava una squadra allo sbando, è riuscita a recuperare e a qualificarsi. Da questo punto di vista, qualche suggerimento a Mourinho? La fortuna dell'Inter è che non c'è Ribéry, anche perché questo è un giocatore straordinario, però adesso Olic, Robin, credo che Mourinho li conosce molto bene, quindi sanno che sono tutti pericolosi. Grande anima del Bayern Monaco è Franz Beckenbauer, ora ai vertici del club. C'è qualche episodio che in qualche modo le rimane ancora vivo dell'incontro con questo grande campione? Ma sì, oltre l'impatto all'inizio, anche perché quando sono arrivato, insomma, essere accolto da Beckenbauer, Rummenigge, non è poco, insomma, ecco. E poi credo proprio l'addio, insomma, quando ho deciso di rientrare in Italia per l'ultima cena, come si dice, mi ha detto Ruggero, anche domani se cambi idea, noi siamo qui con le porte aperte. La cronaca, un insegnante d'asilo di Militello in Val di Catania è stata arrestata per maltrattamenti su bambini della sua classe. Le indagini erano state avviate dopo le denunce di alcuni genitori. Gli investigatori hanno piazzato delle telecamere nascoste nell'aula e hanno ripreso l'atteggiamento della maestra che, secondo l'accusa, prendeva schiaffi e spintonava i suoi alunni. I carabinieri sono poi intervenuti. L'11 maggio il Tribunale del Riesame dovrà pronunciarsi sull'appello presentato dai pubblici ministeri del capoluogo umbro dopo che il GIP ha rifiutato di convalidare 3 nuovi arresti per l'inchiesta sugli appalti per i grandi eventi. Il Tribunale dovrà dire se l'ex commissario per i mondiali di nuoto a Roma Claudio Rinaldi, il commercialista Stefano Gazzani e l'architetto Angelo Zampolini debbano finire in carcere. A Zampolini viene contestato, ricordiamo, il reato di riciclaggio per gli assegni circolari utilizzati per l'acquisto di case per Claudio Scaiola, del generale Francesco Pittorru e del figlio di Balducci, Lorenzo. centinaia di assegni circolari emessi dopo versamenti per l'ammontare di circa 3 milioni di euro, effettuati in diversi momenti dall'architetto Angelo Zampolini. È su questo che ruota uno dei nuovi filoni d'inchiesta della Procura di Perugia sugli appalti per i cosiddetti grandi eventi. Titoli in parte poi utilizzati, è emerso dagli accertamenti, per l'acquisto di vari immobili da parte di altri soggetti. L'ipotesi alla quale lavorano i PM è che il denaro per gli assegni sia riconducibile a Diego Anemone, il costruttore considerato una delle figure centrali dell'inchiesta. Per lui, infatti, lavorava Zampolini. Nel corso dell'indagine, gli investigatori hanno raccolto le testimonianze dei proprietari degli appartamenti pagati anche con assegni circolari. Tra questi anche Claudio Scaiola e l'allora generale della Guardia di Finanza Francesco Pittorru, proprietari di due appartamenti. Entrambi avrebbero sostenuto di aver ricevuto gli assegni circolari come parziale saldo della vendita. Un altro degli assegni di Zampolini, oggetto dell'indagine, è stato però utilizzato sempre, secondo i PM, per l'acquisto di un'abitazione del figlio di Angelo Balducci, Lorenzo. Cristina Carpinelli, GR24, Il Sole 24 Ore. Mancano due giorni alla festa del primo maggio. La querelle è: negozi aperti o serrande abbassate? A Milano e a Firenze la pensano diversamente. I negozi devono stare chiusi come tutti gli altri, se no mi aprite anche le banche, gli uffici postali e tutto il resto, sto aperto anch'io, ma se lo sto aperto solo io, no. Anche noi abbiamo una vita. Sono d'accordo a lasciarli chiusi. No, si lavora già abbastanza. Festa dei lavoratori, festa del lavoro, però penso che ognuno nel proprio interesse possa anche decidere di così tenere aperto se lo ritiene opportuno. Per qualcuno la decisione doveva aspettare ai singoli, ma la maggior parte dei negozianti di Milano non dispiace abbassare le saracinesche nel giorno della festa dei lavoratori. Nessun dietro front, ha precisato Letizia Moratti, la concomitanza con le manifestazioni di piazza, con la conseguente priorità per l'ordine pubblico e il rispetto per la festa del lavoro, sono state le motivazioni con le quali il sindaco ha annunciato la sua scelta di non firmare la deroga che sabato avrebbe dato agli esercenti la possibilità di lasciare i negozi aperti. Irene Privitera, GR24, Il Sole 24 Ore, Milano. A Firenze scatta la deregulation dei negozi nel centro storico per il primo maggio. Le associazioni di categoria, ad eccezione della CNA, hanno chiesto di aprire i negozi sia per dare un po' di respiro in piena crisi economica, sia perché la sera prima in città ci sarà la notte bianca con un maxi afflusso di turisti. Il comune non è riuscito a trovare una mediazione perché i sindacati si sono opposti, allora ha deciso di lasciare libertà agli esercizi commerciali di rimanere aperti nel giorno della festa dei lavoratori dalle 7 alle 24. Stessa situazione anche a Siena, in tutta la provincia, negozi aperti da Badia San Salvatore, Chianciano Terme, Monteriggioni, Pienza e San Quirico d'Orcia. La festa dei lavoratori rischia di diventare la festa del consumo, attaccano i sindacati che hanno proclamato lo sciopero nel giorno in cui si dovrebbe riflettere anche sullo sfruttamento dei lavoratori, sulle morti bianche e su tutto ciò che contrasta con il diritto al lavoro. Ubaldo Cianciulli, GR24, Il Sole 24 Ore, Firenze. E ora il nostro sondaggio di oggi. C'è una coppia di Catania che si era detta pronta ad adottare un bambino, ma una condizione: che non fosse di pelle nera. C'è il Tribunale dei Minori di Catania che ha accettato questa condizione e c'è un'associazione, l'AIBI di Marco Griffini, che grida al razzismo e arriva fino alla Cassazione, che ora si dovrà pronunciare, ma che già ha espresso il proprio orientamento. Una coppia che vuole adottare non può scegliere il colore della pelle del figlio. Condividete questa posizione? Vi chiedevamo nel sondaggio di oggi. Vi siete divisi, ma il 53% di voi ha detto no. Sentiamo Barbara Palombelli, che ha deciso di adottare tre figli. Quando si dà la disponibilità a diventare genitori, e lo si fa anche per vie naturali, l'essere umano che verrà al mondo non sappiamo se sarà bello, brutto, obeso, simpatico, antipatico, se la colonna vertebrale sarà dritta, se diventerà miope molto presto. Insomma, come fa una persona a fare l'amore o a fare una inseminazione se poi pensa, ha paura delle difficoltà che avrà quando il figlio adolescente gli sbatterà la porta? Bianco o nero torna domattina alle 8.30 per votare. Radio24.it. Alessandro Milan, GR24, Il Sole 24 Ore. E GR24 torna invece alle 14, le 13.28 minuti. Un saluto da Anna Migliorati, Carmelo Lauricella in regia. Ora c'è Italia in controluce. A domani. GR24, Il Sole 24 Ore. Direttore Gianfranco Fabi.